24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:20 minuti, eccoci cari ascoltatori, riparte una settimana di 24 mattino. Ci trovate per email 24mattino@radio24.it, i vostri sms al 349-238-6666. E di che parliamo nel nostro sondaggio? Beh, l'attualità ci impone di parlare di Afghanistan. Vi chiediamo, dopo l'attentato che è costato la vita a 4 nostri militari, secondo voi è il caso di lasciare subito questa missione, di ritirare i soldati italiani? Ne parliamo alle 8:30, voi dovete votare. Su radio24.it c'è anche la polemica per la proposta, che poi dovrà passare in Parlamento, di armare con le bombe i nostri aerei in Afghanistan, proposta fatta dal ministro La Russa. Ne parliamo più avanti, e questo chiaramente è il tema che domina alcune pagine dei giornali, giornali che andiamo a sfogliare. In primo piano. Lunedì 11 ottobre, la scelta dell'Afghanistan effettivamente è per molti quotidiani l'apertura. I talebani li abbiamo uccisi noi, questo è per il Corriere della Sera, così Repubblica, i taliban li abbiamo uccisi noi. Polemica sugli aerei con le bombe. Via da Herat in anticipo, questa invece è l'apertura della Stampa. Mentre le altre aperture, il Sole 24 Ore, come di consueto l'edizione del lunedì, il pubblico impiego cambia, una delega per limitare congedi e permessi, ci sono tutte le novità in vista per i dipendenti del pubblico impiego. Per il giornale Berlusconi, gli errori del PDL, il centrodestra alla svolta, il premier striglia i suoi. L'Unità invece si concentra sulla giornata per la sicurezza del lavoro, criticando duramente uno spot definito spot vergogna fatto dal governo. Il titolo è una foto molto molto dura, c'è una persona morta coperta da un lenzuolo bianco sul lavoro. Il titolo è l'oltraggio, lo spot vergogna, secondo l'Unità è quello con cui il governo fa dire nel testo sulla sicurezza del lavoro la pretende chi si vuole bene, come se le stragi bianche, si chiede l'Unità, fossero un problema di autostima dei lavoratori. Anche per il Messaggero l'apertura è sull'Afghanistan, aerei armati decidano le camere. Ma io vorrei iniziare da due notizie di cronaca che trovate sui giornali e che mi hanno molto colpito in questa rassegna stampa. La prima, l'abbiamo sentita anche nel GR, è quello che è avvenuto a Milano. Tassista investe un cane ridotto in coma. Lo leggo dal Corriere della Sera. Cosa è successo? Un incidente che è capitato in una via periferica, un tassista che ha travolto e ucciso un cane che senza guinzaglio gli aveva attraversato la strada. A quel punto il tassista è sceso per chiedere scusa, è stato aggredito dal fidanzato della padrona del cane, 31 anni, incensurato, disoccupato, che l'ha ridotto in fin di vita. Quando è stato arrestato si è giustificato così: mi è partito l'embolo. E guardate che questa frase che il Corriere mette all'inizio dell'articolo non è trascurabile, perché a mio modo di vedere, vivo anch'io a Milano, vivo in una grande città, mi sembra che ormai le persone a cui partano gli emboli ogni giorno cominciano a diventare davvero troppe. È già nel carcere di San Vittore, ieri alle 13:20, l'incidente, la descrizione di cronaca, il tassista che è sceso: mi dispiace molto, ma se aveste tenuto il guinzaglio non ha fatto in tempo. È arrivato Morris Michel Ciavarella, 31 anni, incensurato, senza lavoro, segnalato solo come assuntore di droga, anche lui inveisce contro l'autista, poi lo colpisce con una scarica di pugni, lo spintona e poi lì la caduta con il tassista Luca Massari che sbatte la testa contro il marciapiede. C'è ovviamente immancabile la polemica politica con la Lega che dice ora armiamo i tassisti, Giuliano Pisapia che dice vogliono il Far West, ma insomma siamo in campagna elettorale anche per il Comune di Milano e quindi bisogna sfruttare un episodio di cronaca per queste cose. L'altra notizia che vorrei citare dai giornali, la troviamo solo sulla Stampa, pagina 21, riguarda le vele di Scampia, quello scempio architettonico che doveva essere un'opportunità per Scampia, per aggregare le famiglie, e che è diventato negli anni un simbolo di degrado, tanto che vi è ambientata anche una delle scene più terribili di Gomorra, del film in questo caso. Ebbene, Antonio Salvati racconta sulla Stampa, pagina 21, delle vele di Scampia. Cosa sta succedendo? Le vele di Scampia sono un monumento nazionale. Avete capito bene, sono un monumento nazionale, è quello che vuole il sovrintendente di Napoli. Ovviamente l'obiettivo qual è? Dell'architetto Stefano Gizzi, soprintendente ai beni architettonici di Napoli e provincia, dichiararle monumento nazionale in modo da evitarne l'abbattimento. Cioè sono uno scempio architettonico, ma non possono essere abbattute. Secondo il soprintendente, attenzione a eliminare strutture urbane ed edilizie che rappresentano comunque un momento significativo della storia della progettazione architettonica italiana. Cioè comunque, come dire, traduco io, fanno schifo, ma comunque sono segnano un momento significativo della storia della progettazione architettonica italiana. Le vele sono comunque, da sempre l'architetto Gizzi, parte di una storia della composizione architettonica, nel bene e nel male. E il loro allentamento sarebbe comunque un fatto antistorico. L'assessore al patrimonio demanio del comune di Napoli, Marcello Da Ponte, dice: è una proposta bizzarra. Ricordano anche l'articolo come nel 95 Cossiga, allora presidente della Repubblica, chiamò l'allora ministro per le aree urbane Carmelo Conte dicendo: fai presto a trovare un modo oppure farò bombardare dalla marina militare quello scempio architettonico. Le vele di Scampia sono invece un monumento nazionale per il soprintendente di Napoli. Ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi ripartiamo dall'Afghanistan. In primo piano. Le 7:34 minuti, ci siamo, eccoci qua a parlare di Afghanistan, che è l'apertura di molti giornali e anche il tema del nostro sondaggio. Vi chiediamo, dovete votare su radio24.it se secondo voi sia il caso di ritirare subito i nostri soldati. C'è chi la pensa così, oggi viene notato anche dal Corriere della Sera e in maniera un po' insolita Giuliano Ferrara, che firma il consueto fondo sul Foglio del lunedì. Oggi il titolo è questo: via da Kabul se bisogna starci con il riluttante Obama. Obama è stato eufemisticamente definito dai suoi apologeti un soldato riluttante, ma chi ha voglia di combattere e morire per un soldato riluttante, who happens to be il comandante in capo dell'esercito più potente del mondo? La realtà è che Obama bombarda come Bush, incrementa il numero delle truppe sui campi di battaglia come Bush, organizza ritiri graduali e possibilmente sicuri come Bush, ma al contrario di Bush non ha una strategia politica e militare per fronteggiare la sfida dell'Islam politico all'Occidente. E allora si dice, e scrive Giuliano Ferrara, va detto che sono morti a fare, visto che questa è ormai una guerra riluttante. Certo, bisogna evitare follie, colpi di testa, bisogna discutere con gli alleati, ovvio, ma bisogna anche dire un pezzetto di verità. Finché c'è stata l'amministrazione Bush, le guerre mediorientali hanno avuto un senso. Fu attribuito al peso che aveva il più devastante colpo terroristico della storia dell'umanità, l'11 settembre 2001 a New York e Washington. Bush non si sarebbe mai permesso di definirsi o lasciarsi definire riluttante. Costruì coalizioni, rinsaldò amicizie, dichiarò chiare inimicizie, limitò il godimento di alcune garanzie libertarie a tutela della privacy con il Patriot Act, risolse come poteva la questione della guerra asimmetrica. Morire per Kandahar o per Fallujah allora ebbe un senso. Aveva un senso il sacrificio dei rapiti, le cui teste rotolarono dopo sommari processi coranici. Bush e gli americani e gli europei che lo seguirono con entusiasmo nella prima fase della battaglia si muovevano sulla frontiera grande della politica e della guerra. Insomma, questo era l'Afghanistan e l'Iraq con Bush. Giuliano Ferrara si chiede ora se bisogna starci con un soldato riluttante. Queste guerre non hanno più senso. Ma d'altronde trovate riflessioni su tutte le pagine dei giornali. Per esempio, uno dei temi è quello appunto del ritiro, che per la verità un po' in maniera un po' all'italiana viene fuori quando ci sono queste stragi, questi attentati. L'ex ministro della difesa Antonio Martino rilascia un'intervista al Corriere della Sera, pagina 2-3, dallo stampo opposto. Altro che ritiro, ci vogliono rinforzi, ci ne vogliono un migliaio di soldati in più. L'ideale sarebbe passare dagli attuali 3.500 a 4.500. Per esempio, togliamoli dal Libano. E tra l'altro dice Antonio Martino, la missione in Libano è nata anche per una ripicca e non serve a nulla. Come una ripicca, chiede Marconese? Beh, fu un'operazione voluta da Prodi e da Lema, solo allo scopo di far prevalere la discontinuità rispetto al governo Berlusconi precedente, ma fu una sciocchezza e anche una mascalzonata da parte di D'Alema. Cioè? Beh, per giustificare l'abbandono dell'Iraq a favore del Libano, mi accusò di aver preso un'iniziativa senza avvertire il Parlamento. Quando gli dimostrai che avevo informato le Camere, ammise che era vero, ma non se n'è mai scusato. E io gli dissi, udite, udite Martino, possa l'intero popolo italiano non risparmiarle il disprezzo. Questo... Martino a D'Alema, Martino che dice togliamoli dal Libano, non servono a nulla e mettiamoli in Afghanistan. L'altro tema che crea e suscita polemiche e dibattiti è quello che il ministro La Russa ha rilanciato ieri da Lucia Annunziata in mezz'ora, vale a dire la possibilità di armare con le bombe i cacciabombardieri, gli aerei italiani in Iraq. Bombe sugli aerei e polemica tra i poli, lo leggo dal Corriere della Sera, diciamo l'Italia è l'unico paese che ha i cacciabombardieri senza bombe. È una discussione che dovrà passare attraverso il Parlamento. Per esempio nel Partito Democratico Ignazio Marino in un'intervista alla Stampa pagina 3 dice: se è guerra, e cioè se ci sono le bombe, io non ci sto più. Mentre Fausto Biloslavo intervista chi? Il generale Claudio Berto, che è il generale comandante del fronte NATO dell'Afghanistan occidentale. Lo raggiungiamo al telefono appena salutato le salme dei quattro alpini che rientreranno oggi in Italia e tra l'altro tra le varie domande dice, senza per la verità sbilanciarsi troppo, il generale Berto riguardo alle bombe: tecnicamente è un'opzione che può servire, già sperimentata dai nostri alleati in Afghanistan, ma come ha annunciato lo stesso ministro della difesa, la Russia, la decisione sarà discussa dal Parlamento. Insomma, ne parla tecnicamente ma non si sbilancia troppo. Comunque questo è un tema che affronteremo alle 8.30 con ospiti. Ci sarà tra gli altri anche Cecilia Strada, presidente dell'organizzazione umanitaria Emergency, a parlare di questo tema. Voi votate su radio24.it se secondo voi il contingente militare italiano dovrebbe lasciare subito l'Afghanistan. Questa è la domanda che vi poniamo. Oh, veniamo a parlare della politica italiana. La politica italiana ieri si è animata soprattutto per l'uscita del presidente del Consiglio Berlusconi, che è rientrato dalla Russia ma ha fatto un collegamento telefonico con una festa, la festa del ministro Rotondi. E come per la verità anche il giornale rileva in prima pagina in apertura, ha strigliato il proprio partito. Berlusconi, gli errori del PDL. Il centrodestra alla svolta, questo è il titolo d'apertura del giornale, con il commento anche del direttore Alessandro Sallusti. Che cosa c'è dietro questo? Perché è la prima volta che Berlusconi, che per la verità veniva dato varie volte come una persona che un pochino si era infastidita anche delle varie, dei vari screzi, dei vari problemi all'interno del partito, ma per la prima volta lo ha pubblicamente detto che c'è qualcosa che non va, cioè tutta colpa del PDL, o meglio, se gli elettori in questi ultimi periodi hanno magari perso un po' di affezione alla politica, non si deve alla colpa del governo ma del partito. E allora ecco che subito i retroscenisti della politica ci raccontano che forse c'è qualcosa in studio da parte di Berlusconi. Cambiare il partito, sicuramente cambiare qualcosa all'interno del partito. Subito Daniela Santanchè fa un'intervista a Repubblica e dice è il momento dell'unità, e alla domanda l'unità all'interno del partito, la domanda a qualcuno ha pensato a lei come coordinatrice unica del partito, per carità. Chi vuole questo mette zizzania, semina zizzania, non cado nella trappola, questo è il momento dell'unità per far vincere il PDL e sostenere l'azione di governo. Mentre invece Marco Galluzzo sul Corriere della Sera è un po' più esplicito su quello che starebbe ronzando nella testa di Silvio Berlusconi. Il premier e la sfilata degli scontenti, e lui: basta, non ne posso più. Cambio tutto, L'ha detto decine di volte, è lo sfogo di tante sere, di tante chiacchierate, solo che alle parole non seguono i fatti. Complice la generosità dell'uomo, la delicatezza dell'impresa, Berlusconi si lamenta sempre tra quattro mura, di quel cambio tutto alla fine non resta che l'eco nelle orecchie di interlocutori che non ci credono più. Ieri Berlusconi ha fatto un passo avanti, non ha detto cambio tutto, ma ha criticato il partito in pubblico, nero su bianco. Ecco così come scrive Marco Galluzzo. Magari non cambierà niente, anche stavolta, ma non è un segnale da sottovalutare. La questione è che ogni settimana varcano il portone delle due residenze, Palazzo Grazioli e Arcore, deputati, senatori, membri del governo e del sottogoverno, persino gente come Deborah Bergamini, per anni assistente del Premier. E la litania è sempre la stessa. Le frizioni coi coordinatori, la lite, le mille situazioni locali, dalla Sicilia alla Toscana, per le quali non esiste camera di compensazione. E allora ecco il Berlusconi del non ne posso più, sono costretto a fare tutto da solo, costretto a dirigere il traffico del partito. L'ultimo a lamentarsi è stato con una lettera che Denis Verdini, colui che gode della fiducia umana e politica del Premier, ha scritto una lettera molto toccante e personale al suo capo, mischiando l'analisi politica, la sua personale situazione, convinto di essere bersaglio e vittima delle procure. Insomma, da qui l'idea di cambiare, un piccolo grande cambiamento per un partito che deve ancora risolvere una contraddizione innata, vivere e contare senza l'aiuto quotidiano del cavaliere. Sta di fatto che dopo la rivoluzione del predellino, dopo la federazione al soggetto politico unitario, cioè la nascita, insomma, del PDL-AN, c'è qualcosa che ferve all'interno del Popolo della Libertà, anche se vince nettamente il re di vivo Renato Brunetta, il ministro Brunetta, che alla frase, alle critiche, insomma, alla domanda che cosa succede all'interno del Popolo della Libertà, ha detto: abbiamo un PDL così pieno di imperfezioni, così pieno di rogne, così pieno di problemi, ma passatemi l'ossimoro, è una meravigliosa schifezza. Questa è la definizione del partito data da Brunetta, che poi ha aggiunto: premesso che il Premier ha sempre ragione, certo il PDL ha problemi di crescita perché ha amalgama diverse, ma meglio essere un grande partito con tante culture diverse che la morta gora come qualche partito dell'opposizione. Cita Dante Brunetta, che dice: amo questa meravigliosa schifezza, il Popolo della Libertà. Questo lo leggiamo sul giornale. Anche per Repubblica, il cavaliere rivoluziona il partito, prima delle elezioni cambio tutto. È un altro retroscenista, Carmelo Lopapa, prima delle elezioni cambio tutto, che vuol dire? Non si sa, ma la politica di sti tempi è così. È molto, molto chiacchierata. Ritorniamo dopo il traffico a parlare ancora della vicenda Sara Scazzi, questa vicenda che ha davvero sconvolto l'Italia e che ancora oggi sulle prime pagine dei giornali prende spazio per i particolari sempre più raccapriccianti. Il Corriere Repubblica, per esempio, il Corriere pubblica il verbale dell'interrogatorio dell'assassino Michele Misseri, che leggeremo subito dopo il traffico. In primo piano. Dopo averla uccisa e buttata là sotto, sono tornato tre volte a controllarla. Così è l'estrapolazione di una delle frasi del verbale dell'interrogatorio a Michele Misseri, il confesso assassino di Sara Scazzi, che oggi il Corriere pubblica interamente o ampi stralci a pagina 24. Allora, signor Michele, quello che ci dice oggi può valere per sempre, ok? Ok, risponde lui, e da lì racconta per un'ora l'orrore, rimettendo mano ai ricordi di come ha ucciso, di come ha occultato poi il corpo di cui ha fatto scempio, della nipote. Quando la butta nel pozzo, cosa fa? L'ho ricoperta, ho messo la pietra che stava originale sopra, poi quelle piccole in giro. Prima ho messo un po' di paglia sopra, poi un ceppo. E perché l'ha fatto? Perché mi sono sentito, come dire, in colpa. Mi volevo, non so nemmeno io cosa volevo fare, infatti il cellulare di Sara l'ho tenuto tre giorni in macchina. E poi lei è ritornato, sì, tre volte sono tornato. E quando è tornato là, che ha fatto? Ho detto qualche Ave Maria, qualche cosa, il segno della croce. ma il pozzo l'ha aperto? Solo una pietra per vedere, ma non si vedeva. Ho fatto con una lampadina tascabile, ma non si vedeva niente. E poi gli dice, ma lei sapeva già dove portare Sara, dove lasciare quel corpo? No, mi è venuto così spontaneo, mi ricordavo quel pozzo. Poi quando le è venuta l'idea, questi sono i momenti anche più crudi del magistrato, di violentarla. Beh, quando stavo sotto l'albero di fico non sapevo dove metterla, ho visto l'albero di fico e l'idea mi è venuta nel momento stesso. Per quale motivo, dopo averla spogliata e violentata, ha deciso di rivestirla per buttarla nel pozzo? Non lo so nemmeno io. L'ho rivestita completamente, pure le scarpe, ci aveva l'infradito. Poi ha bruciato i vestiti. E poi anche questa cosa terribile, il telefonino di Sara, sul quale i magistrati insistono. Mentre lei faceva tutto questo, il cellulare di Sara dove stava? In cantina. E mentre la stava uccidendo, il cellulare squillava? Sì, 3 o 4 volte. Poi è caduto a terra e si è tolta la batteria. Che significa è caduto per terra da solo? Beh, ce l'aveva in mano Sara nel momento che stavo stringendo il collo. Era Sabrina che la stava chiamando, cioè la figlia. Io non l'avevo visto che stava fuori con Mariangela, l'amica. Poi, quando si è accasciata Sara, il cellulare è andato a terra. Cioè, suonava il cellulare perché la stavano cercando mentre lui stringeva la corda. Ci sono ancora anche polemiche che continuano, e c'è anche oggi una bella intervista a Enrico Mentana, fatta da Fabrizio Roncone sul Corriere, le polemiche su come questa notizia è stata divulgata, no? La famosa diretta di chi l'ha visto, o tra l'altro con la solita ipocrisia, no? Cioè l'ipocrisia di tutti i benpensanti che hanno criticato, e poi la dimostrazione che con l'Auditel nessuno ha cambiato canale, anzi, mentre c'era questa diretta di 12 minuti con la madre che apprendeva poco a poco dell'uccisione della figlia in diretta, tutti che andavano a cercare Rai 3 per vedere chi l'ha visto, salvo poi ovviamente indignarsi dopo. Fermare le dirette dell'orrore è inutile, un codice vince la morbosità. Ecco qua, vince la morbosità. Dice Enrico Mentana, il dato di partenza chiaro e tondo deve essere questo: chi l'ha visto è un format della trasmissione che prevede che gente sparita sia rintracciata. Qui purtroppo è successo che è stata trovata morta, un caso pazzesco, clamoroso, però previsto dal format del programma. Perché tanto stupore? Mi spiego, quando ci mettiamo in poltrona per assistere a una gara di Formula 1 sappiamo che c'è una possibilità su 99 che una macchina a 300 km schizzi fuori e si spiaccichi col suo pilota. Chiedo, c'è qualcuno che può stupirsi di quella morte? Quindi tu sostieni, chiede Fabrizio Roncone, che coloro che assistevano a chi l'ha visto, beh, allora, come immaginerai, lo interrompe Mentana, sono abituato a leggere i dati Auditel e sai cosa dicono i rilevamenti? Ecco qui, dicono che chi era collegato non ha cambiato canale, nemmeno uno, anzi sono cominciati ad affluire migliaia di altri telespettatori da altre reti, eppure loro tutti lì inchiodati fino alla fine. È la nostra morbosità, la verità è che certi spettacoli scatenano un'inaudita attrazione, la stessa per capirci per cui la maggior parte degli automobilisti rallenta per vedere il morto steso sull'asfalto nella corsia accanto. Sono completamente d'accordo, salvo poi indignarsi ovviamente dopo aver visto e goduto fino all'ultimo secondo di questo spettacolo. D'altronde li avete visti in questi giorni, il peregrinare di persone, di uomini, donne che portano i loro bambini a vedere un campo come gli altri, solo che in quel campo c'è un buco nel quale è stata buttata Sara Scazzi. Allora si va lì a fare la foto, a vedere. Allora, prendiamo in mano il Sole 24 Ore, il pubblico impiego cambia, come detto questo è il titolo d'apertura, part-time e permessi statali sotto esame, c'è un'interessante inchiesta fatta da Francesca Barbieri con tutte le novità che riguardano il pubblico impiego e il collegato lavoro, che rilancia la riforma del pubblico impiego, tante novità soprattutto per quel che riguarda il part-time, che non sarà più obbligatorio come era un diritto del dipendente pubblico in passato, da 2 anni a questa parte invece vigono le regole un po' come quelle del settore privato, cioè l'amministrazione pubblica potrà respingere la richiesta se la riduzione d'orario complica l'organizzazione del lavoro senza dimostrare il grave pregiudizio. Ci sono tutte le novità in arrivo su part-time, congedi, mobilità, aspettativa, pari opportunità del pubblico impiego. Le trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore e la notizia d'apertura del lunedì. Detto questo, siamo alla segnalazione conclusiva. L'attualità la trovate ampiamente pubblicizzata, pagina 21 di Repubblica. Arriva l'auto che si guida da sola. Sarà in commercio tra 8 anni. C'è anche Google. Ma sì, la società che si occupa più di motori di ricerca, in questo caso si occupa di motori anche d'auto. Google studia un prototipo, in futuro il conducente sarà un optional, ha una vista a 360 gradi ed agisce molto più velocemente degli esseri umani, non è fantascienza, non si distrae, non si droga, non beve. Una specie di robot, più o meno, un'auto che si guida da sola. In commercio tra 8 anni arriva l'auto che si guida da sola. Beh, è una splendida notizia per le donne. È una battuta, eh? Ora andiamo al GR. 24 mattino. L'intervista. Alle 8 e 21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, saluto per la nostra intervista di oggi il procuratore della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Nicola Gratteri. Procuratore, buongiorno. Buongiorno. Senta, Reggio Calabria, arriva anche l'esercito ora dopo le bombe alla procura, dopo un prototipo di bazooka trovato. È anche questa una risposta all'esercito? No, assolutamente no. È sempre la politica del giorno dopo che purtroppo i governi degli ultimi 20 anni ci hanno abituato, almeno per quella che è la mia conoscenza diretta come magistrato. Bisognava prima riempire gli organici, che sono vuoti di migliaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri, quindi prima coprire l'ordinario, poi se c'era necessario l'eccezionalità, perché i costi complessivamente nella cassa dello Stato aumentano, perché se arrivano 80 o 100 o 140 militari bisognerà pure provvedere alla logistica, bisognerà provvedere pure all'aspetto amministrativo e quindi i costi aumentano. Se invece noi trasferiamo stabilmente delle persone non dobbiamo pagare missioni, trasferte, eccetera, come avviene sempre, perché i 40 poliziotti, carabinieri che hanno annunciato di mandare, ognuno di questi costerà ogni giorno 100 euro al giorno di missione. Se invece loro avessero riempito gli organici negli anni passati, anche nei mesi passati, oggi non ci sarebbe bisogno di questa ulteriore spesa. Poi questi 40 poliziotti hanno bisogno di 2 mesi per imparare nome e cognomi, e il mese dopo incominciano a lavorare, il mese dopo ancora saranno riassorbiti pian piano in silenzio, come lei dice, per ambientarsi hanno bisogno anche. Esatto. Senta, ma qualcuno oggi ha fatto una proposta, credo sul giornale, visto che si susseguono per esempio attentati alle aziende che lavorano sulla Salerno-Reggio Calabria, mettiamo l'esercito a presidiare i cantieri? Vabbè, ma questo non può limitare che salti un escavatore in meno, una ruspa in meno, però la tangente, l'accordo, la mazzetta viene a monte, si viene discussa a tavolino prima che si inizino i lavori. Quando salta una betoniera e che sono saltati gli equilibri, è saltato l'accordo, ma non esiste un chilometro di autostrada che percorre questa ristrutturazione, questo rifacimento dell'autostrada. Ogni locale di 'Ndrangheta vuole la sua fetta quando l'autostrada passa sul suo territorio. E non esiste chilometro intonso da questo punto. In questo momento, dalle indagini che sono state fatte sinora, no. Senta, se uno le dice, guardando gli ultimi arresti, il fatto anche che c'è un pentimento recentemente di 'Ndrangheta, un fatto davvero raro, la mafia sta per abbassare la testa, lei come reagisce? No, assolutamente no, guardi, noi in questi 20-25 anni ne ho viste, ho visto anche arrestare 600-700 persone in una sola volta. Se io le dico che noi da gennaio ad oggi abbiamo arrestato 1000 ndranghetisti, e se io le dico che in questo momento ci sono 10.000 ndranghetisti in provincia di Reggio Calabria, come fa a dire che la 'Ndrangheta sta traballando, che è in crisi, che sta facendo? Noi abbiamo, con l'operazione Crimine, che abbiamo arrestato fiori di delinquenti, abbiamo arrestato capi locale, abbiamo arrestato anche i vertici in parte della 'Ndrangheta, però ognuno di questi ha 5-6 figli, che già hanno preso il loro posto. Nicola Gratteri, forse la gente non lo sa, è il calabrese doc di Gerace, credo, no? Nato sì, Gerace, sì, sì. Che nella vita ha anche fatto arrestare molti compagni di giochi, di scuola. Di banca, sì, certo. Quanti? Non si sa. Ha perso il conto. Cioè, molti dei quali erano incensurati. E che gli dicono quando lo arrestano? Dicono, ma come, no, Nicola? No, questi purtroppo sono ragazzi sfortunati che sono nati nella famiglia sbagliata. Io ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia di persone oneste, di umile, ma di grandi valori morali, e quindi mi sono salvato. Se io fossi nato in una famiglia di 'ndranghetisti, a quest'ora sicuramente sarei un capomafia o sarei vertice del locale di 'ndrangheta. Cioè, essere un 'ndranghetista non è una scelta? No, è una cultura, è una religione, è un credo. Cioè, ci si nutre di cultura mafiosa già da quando si nasce. Quando un bambino ha 4 anni, 5 anni, vede i carabinieri che gli sfondano la porta di casa per portargli via il padre, lo fratello maggiore, lo zio, perché è trafficante di cocaina, il bambino a quell'età vedrà subito il carabiniere, lo sbirro, il nemico da battere, vedrà e identificherà lo Stato nello sbirro che gli porta via il padre. Eppure lei una volta ha detto il protettore, credo, il santo protettore dell''ndrangheta. San Michele Arcangelo, che è anche il santo protettore della Polizia di Stato. E questa, ma se non sono scelti gli 'ndranghetisti così, insomma. No, dobbiamo vedere chi l'ha scelto per primo, se la polizia o la 'ndrangheta. Chi l'ha scelta prima o dopo. Un'ultima battuta, procuratore. Lei ha detto di recente, i criminali, i 'ndranghetisti, tendono a pensare che in appello le condanne si sistemino sempre dopo una condanna. Guardi, finora c'è stata sempre questa convinzione. Forse adesso è che questa convinzione è finita, che ha portato ad alzare un po' il tiro. Ma c'è un maggiore controllo, ma poi naturalmente di tutti questi attentati che ci sono stati da gennaio ad oggi, come anche il ritrovamento della macchina con armi, cioè con un po' di insalata là dentro, c'era armi esplosive, c'era benzina, c'era di tutto in quella macchina il giorno in cui è stato trovato il Presidente della Repubblica, diciamo che dobbiamo stare attenti a fare un'analisi fatto per fatto, altrimenti rischiamo di fare un'insalata e quindi a non arrivare poi alla verità vera. Il bazooka, però so che non può entrare nelle indagini, però quella del bazooka è un fatto grave, quindi certo. Quello cioè, sì. È un messaggio, bisogna capire però qual è il livello di interesse, di impegno dell''ndrangheta o della criminalità organizzata in questi episodi, cioè capire il livello, cioè quanto è coinvolta l''ndrangheta doc, quanto è coinvolta l''ndrangheta di serie B, la criminalità organizzata. Bisogna stare attenti. Visto che io la devo salutare, ma c'è un ascoltatore che mi scrive: come possiamo far sentire la vicinanza a persone come il dottor Gratteri? Non so, come si può far sentire la vicinanza? Cercando, intanto a me farebbe piacere sapere che la gente è coerente per quello che è il proprio ruolo e la propria funzione, e poi aiutare chi ha bisogno, donare il sangue, a donare gli organi, aiutare la gente in ospedale che è sola, abbandonata nelle case di cura, che una volta si chiamavano ospizi e davano più senso alle cose, aiutare gli altri. Meglio così. La ringrazio, procuratore. Grazie. Nicola Gratteri, procuratore aggiunto alla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, dal 1989 sotto scorta, calabrese doc, che i 'ndranghetisti li arresta, tanti ne arrestati, e tra l'altro su di lui io non l'ho detto, perché so che non è che ama ripeterlo con una smania di protagonismo, anche nei suoi confronti sono stati sventati almeno diversi attentati in passato. Ci fermiamo qui, grazie. La pubblicità è meteo e poi parliamo di Afghanistan, della necessità secondo alcuni di ritirarsi subito i soldati italiani, se ne parla sempre quando avviene una strage come quella che è avvenuta, 4 alpini uccisi. Noi vi chiediamo che ne pensate tra poco, dopo pubblicità e meteo. 24 mattino. 8:34 minuti, eccoci qua a parlare dunque di Afghanistan, è il tema del nostro sondaggio dopo l'uccisione di 4 militari italiani. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? salme che tra l'altro arriveranno alle 9 questa mattina in Italia. Noi quello che vi chiediamo su Radio24.it di votare è se secondo voi la missione dovrebbe finire qui, se secondo voi i militari italiani dovrebbero lasciare subito il paese, l'Afghanistan. Per ora vi state dividendo, cioè a dire prevalgono i sì di poco, il 54%. Potete anche chiamarci al 800 24 00 24, ne vogliamo parlare con Cecilia Strada, che è presidente di Emergency, che saluto, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno a voi. Voglio salutare anche Andrea Nativi, direttore della rivista italiana di difesa. Direttore, buongiorno, eccoci. Buongiorno a voi. Nativi, partirei da lei, perché lei sul giornale un paio di giorni fa ha detto: lo so che è brutto, lo so che negli altri paesi è diverso, magari negli Stati Uniti, dove le vittime militari sono molto maggiori dal punto di vista numerico. Forse però dovremmo iniziare a convivere all'idea, abituarci all'idea di convivere che se ci sono delle missioni ci sono dei morti. Da questo punto di vista in Italia secondo lei c'è troppa emozionalità nel vivere questi avvenimenti? Sì, troppa emotività, anche perché ci si nasconde dietro le parole e le etichette. Vede tutto questo dibattito su ma è una missione di peacekeeping, di peace enforcing, no è guerra, che cos'è? Allora uno cambia a seconda dell'etichetta, ma quello che conta è la sostanza. Se in una missione la chiamiamo come vogliamo, si va e poi succede che bisogna combattere, si combatte e non importa nulla come viene definita, sicuramente non importa nulla a chi è là e combatte. E poi da noi, siccome c'è questo problema della missione di pace, che portiamo la pace, se muore qualcuno allora succede il disastro politico e arrivano poi anche queste polemiche ridicole sul armiamo con le bombe degli aerei che si chiamano bombardieri. No, ecco, io questa non l'ho capita, poi vediamo, perché le posizioni io quelle che rispetto sono quelle o la sua o quelle anche, io lo dico, di Cecilia Strada, cioè chi dice, o di Emergency, cioè sono contro la guerra, uno può essere a favore, sono contro la guerra, ma l'idea che ci stiamo arrovellando sul fatto che abbiamo, unico paese presente in Afghanistan, dei cacciabombardieri senza bombe, cioè voglio dire, i cacciabombardieri senza bombe è come una macchina senza ruote, io la vedrei così, non lo so, però ci stiamo dibattendo in Italia su questo. Ecco, ci aiuti a capire, un cacciabombardieri senza bombe che fa? Caccia? Che fa? Fa il ricognitore, a dire il vero anche i tedeschi usano i loro velivoli solo come ricognitori, però noi abbiamo trovato, come al solito italiani, una via di mezzo. Allora, i nostri sono ricognitori, ma in teoria, in casi di assoluta necessità, possono scendere a mitragliare con le armi, ovvero sia le mitragliere che hanno da 20 gli AMX, 27 i Tornado, il che è una cosa tipo Seconda Guerra Mondiale, che è pericolosissima per i nostri piloti, che devono scendere, quindi si espongono parecchio, e oltretutto poco efficace, perché se c'è una situazione in cui si chiede un intervento CAS, cioè Close Air Support, chi sta combattendo vorrebbe che venisse recapitato sul nemico l'armamento più efficace, non quello che risulta più accettabile politicamente nei palazzi romani. E quindi questo è. Allora, Cecilia Strada, di questi discorsi immagino non sarà d'accordo, diciamo dall'A alla Z, ma Emergency è un'organizzazione che ha sempre fatto del suo, se si vuol dire anche antimilitarismo, un punto importante, cioè si fanno gli interventi nei paesi e ci vogliamo distinguere molto bene dal fatto della presenza dei militari. Ora, la sua posizione sull'Afghanistan quale sarebbe? Tutti via subito da oggi? Ma intanto mi colpisce il fatto che per una volta sono d'accordo almeno in parte con Nativi quando dice che è ridicolo questo gioco di parole, di chiamarla missione di pace, di chiamarla operazione di polizia internazionale, è una guerra, questo è. Non sono d'accordo invece quando biasima l'emotività che si scatena. Io credo che sia assolutamente razionale e umano che si scatini l'emotività quando muore della gente. Non riesco a immaginare una madre che riceve la telefonata: sai, tuo figlio 27 anni è morto in Afghanistan. Mi piacerebbe che si scatenasse l'emotività anche ogni giorno, perché ogni giorno ci sono civili che muoiono in Afghanistan, civili afghani che raramente invece hanno spazio sui nostri giornali. Cioè, forse l'emotività a cui si riferisce, a cui mi riferisco anch'io, non è certo quella della madre e dei familiari, che per carità, cioè, ma l'emotività anche della politica, che voglio dire, cioè, se c'è un paese che è in guerra, diciamo in guerra, non è che si può a ogni piè sospinto, oppure dimenticarsi per 364 giorni, poi quando c'è un morto, siccome in guerra purtroppo si muore, fare insomma dichiarazioni un po' estemporanee. Sì, infatti io credo che sia una riflessione che dovrebbe impegnarci tutto l'anno, che dovrebbe impegnarci anche soprattutto prima di imbarcarci in un'operazione militare che ormai è durata più della prima e della seconda guerra mondiale e che ha portato a ben scarsi risultati, tant'è che siamo lì per... Ieri ho anche detto che un esponente politico dell'opposizione ha detto che non siamo lì per fare la guerra a nessuno, ma insomma allora non ho capito niente, nemmeno ai talebani, e se ancora qualcuno crede che si possa andare a combattere i talebani ma senza sparare per primi, veramente non è questione di conoscere l'Afghanistan, è questione di avere un minimo di buon senso, esattamente come la questione dei cacciabombardieri. Siamo una caccia a bombardare, siamo lì a fare una guerra, e questo è, e quello che noi diciamo è che questa guerra ha evidentemente fallito i suoi scopi dichiarati, probabilmente anche i suoi scopi non dichiarati, e che un'alternativa va trovata immediatamente, perché così non si va avanti. Noi abbiamo un punto di osservazione naturalmente particolare, che è quello dei nostri ospedali per vittime di guerra, che sono sempre costantemente pieni. Posso dirvi solo un dato: a agosto e settembre, gli ultimi due mesi, nell'ospedale di Lashkar abbiamo ricoverato 309 feriti di guerra, 166 hanno meno di 14 anni, fa il 38,8%. Senta, ma vogliamo ricordare un attimo la genesi di questa guerra, e quindi la domanda che le voglio fare, visto che quando ci fu il bombardamento, ci fu l'attentato alle Torri Gemelle, nacque così un mese dopo i bombardamenti con Bush, allora la coalizione, per voi fu sbagliato già intervenire allora? Ma assolutamente sì. Assolutamente. E perché, voglio dire, cioè, partendo dal fatto che l'attentato alle Torri Gemelle fu pianificato lì. Fu pianificato lì? Di questo credo ci siano mai state assolutamente prove. Ma guardi, già settimana scorsa ho avuto Giulietto Chiesa in onda, si è scatenato un putiferio. Lei è una di quelle che si diciamo, ma mette... io francamente dubito che si sia pianificato nel deserto afghano più di quanto non possa essere stato pianificato in Pakistan. Invece il Pakistan è stato un ottimo alleato delle alleanze dei poteri occidentali, e francamente andare a spianare un paese perché forse lì si nascondeva la mente che, ma forse, siamo sempre nell'ambito delle ipotesi, è tanto ridicolo quanto dire che andiamo a combattere la mafia spianando la Sicilia con le bombe. Ma il principio comunque fosse stato lì il punto di pianificazione, era giusto almeno bombardare, cioè, se no io le chiedo qual era l'alternativa. Se si scopre che nel punto X hanno pianificato un attentato come quello delle Torri Gemelle, ci sono delle centrali del terrorismo, che si fa? Si bombarda oppure no? Allora, bombardare è sempre una scelta che, ma questo l'hanno messo anche i generali americani, quando vai a bombardare il bombardamento per sua natura è indiscriminato, quindi vai a massacrare forse quelli che sei andato a cercare, se non sono scappati, cosa che fossi loro avrei fatto, ma soprattutto vai a uccidere civili. Ogni volta che uccidi un civile fai fiorire un talebano e quindi sei punto e a capo. Questa è un po' la questione. Dopodiché, cosa si poteva fare? Bella domanda. Forse si poteva partire anche un attimo prima, senza addestrare, armare, finanziare, coccolare i talebani. Questo potrebbe essere stato un buon punto di partenza. Sentiamo su questo che ne pensa Nativi. Qui si mette in discussione l'essenza stessa, insomma, della genesi di questo intervento militare. Ma direi che pensare che l'intervento in Afghanistan sia stato fatto per beccare Bin Laden è un po', direi, naif. Posto che ricordo che nel 98 Bin Laden era stato oggetto di un attacco con missili da crociera che purtroppo fallì per una mezz'oretta, quindi non è che si sono svegliati dopo, si erano già svegliati prima, però Bin Laden non è tanto facile da beccare. Visto che tutto l'Afghanistan era un gioioso campo di addestramento per l'internazionale, la chiami del terrorismo, quello che crede, direi che il risultato è stato fatto, questo non accade più, questa prima cosa, altrimenti lì sarebbe ancora una fucina di guerriglieri e di terroristi da mandare a spasso, magari anche a casa nostra. Secondo punto, quello dei bombardamenti che certamente uccidono purtroppo anche i civili, adesso per fortuna sempre di meno, infatti gli ultimi dati dell'ONU ci dicono che la maggior parte dei civili afghani vengono uccisi dai talebani, ma sicuramente Cecilia Strada sa benissimo che prima che iniziasse l'intervento militare, non è che esattamente l'Afghanistan fosse la terra dell'Eden e non si ammazzassero fra di loro, e gli ospedali probabilmente erano anche allora pieni. Tra l'altro, se noi ce ne andassimo, per dirla chiaramente, il minimo che scoppia è una divertente guerra civile come quelle che l'Afghanistan ha avuto almeno negli ultimi 30 anni, ha fatto tra russi e guerre interne credo su 1 milione di morti, più o meno. E poi destabilizziamo completamente il Pakistan, che chissà cosa gli può accadere, e il Pakistan c'ha la bomba atomica. Quindi se qualcuno uno comincia a ragionare in questi termini, capisce che l'idea di abbandonare l'Afghanistan al suo destino e di sospendere le operazioni militari non è magari troppo brillante in prospettiva. Ultima osservazione sui bombardamenti. Certo, i bombardamenti uccidono, però pensiamo un pochino se gli americani non avessero fatto i bombardamenti sulla Germania nazista nel 1945. Probabilmente i nazisti avrebbero vinto la guerra, perché sarebbero riusciti a schiacciare la Russia. È un paragone, secondo lei è un paragone che regge? Cioè la Germania nazista come la minaccia terroristica dall'Afghanistan? No, io parlo semplicemente di bombardamenti che uccidono i civili. Mai pensato a Dresda? A Roma c'è un quartiere che si chiama San Lorenzo, fu spianato completamente. Però poi alla fine il risultato forse... non c'è nessuno che dica no, non dovevano intervenire gli americani, no, non dovevano liberare l'Europa dal nazismo e dal fascismo. È la posizione che aveva, anche da qui voglio ripartire dopo il traffico, anche Lutwak, che l'ultima volta abbiamo messo a confronto proprio con Cecilia Strada, che l'altro giorno ci ha detto, qualche giorno fa, riguardando l'Iraq, i morti iracheni non contano, tanto lì si ucciderebbero comunque. E poi insomma anche nella Germania nazista si è bombardato, qualcuno è morto di civile, ma insomma per un interesse superiore è stato giusto così. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, Afghanistan, il possibile ritiro delle nostre truppe, che ne pensate? Sentiamo Giulia da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica Giulia. Io sono per il ritiro immediato, secondo me non si può risolvere la guerra in questo modo, credo che bisogna riconoscere che è un errore, e quindi l'unica cosa che bisogna discutere in Parlamento è ritiro immediato. Ritiro immediato, va bene. Certo. La ringrazio, rimaniamo a Milano da Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Dica. Semplicemente restare per due motivi. Uno, ormai l'impegno è preso anche per orgoglio, non so se hai letto l'articolo di Romano sul Corriere. Vabbè, che c'entra l'orgoglio, però mi scusi l'orgoglio è un po' una storia che non è troppo felice sotto l'aspetto degli impegni che prendiamo delle volte, è una storia un po' vecchia, ecco, e questo è la mia opinione. Dopodiché, come diceva il dottor Nativi, sono convinto che con queste operazioni stanno trattenendo i loro pezzi migliori sul loro territorio piuttosto che averceli in casa noi. Questa è la mia opinione. Cioè, i terroristi vuol i dire? I terroristi. Ah, ecco. No, la ringrazio. Cecilia Strada, lei contesta questa visione, cioè del fatto che comunque si va lì e si limita per questo la possibilità che terroristi vengano addestrati, vengano, cioè i campi di Al-Qaeda non è che ce li siamo inventati, magari non erano in tutto l'Afghanistan come dice Nativi, però c'erano, no? Ecco, magari erano più in Pakistan che in Afghanistan, dopodiché per anni non si sono visti in Afghanistan i cosiddetti Afghan Arabs, questi i combattenti guerriglieri che giravano per il mondo, dalla Bosnia all'Algeria, al Pakistan, all'Afghanistan. Per anni non si sono visti in Afghanistan dopo i russi. Adesso stanno ricomparendo nel sud del paese, si vedono delle facce che sono chiaramente Afghan Arab. Però volevo precisare una cosa, io non penso che il fine dichiarato giustifichi i mezzi, perché scendiamo veramente una china molto pericolosa se diciamo però l'intento era buono e quindi qualche massacro di civili ci può stare. Dresda è stata un bombardamento a tappeto sul centro storico di una città con obiettivi militari soltanto indiretti, che ha fatto, secondo le stime più generose, nel senso più gentili, ma le stime al ribasso, 25.000 morti civili. Gli avieri britannici hanno detto agli avieri americani: ma ragazzi, come avete fatto a sopportare la puzza dei passeggini che bruciavano? Ecco, io la puzza dei passeggini che bruciano non la posso tollerare. è tutto giustificabile perché l'idea era quella di sconfiggere il nazismo? Hiroshima e Nagasaki sono giustificabili perché l'idea era quella di sconfiggere il nazismo? Attenzione, perché se passa questa idea, dal punto di vista dei talebani è assolutamente giustificabile tirare giù poi i talebani. Chi ha tirato giù le Torri Gemelle è assolutamente giustificabile in nome del colpire il nemico. È una macchina pericolosa. Ma questo è il dibattito che si può fare. Nativi, so che ci deve lasciare, non so se vuol fare un'ultima considerazione, però l'obiezione sì, di Cecilia Strada è questa. La faccio al volo, la mia ultima considerazione è questa. Infatti noi possiamo anche non fare operazioni militari e lasciare che un paese sia il luogo dell'allegria e della concordia come la Somalia, oppure potremmo non intervenire in Darfur, in Sudan, lasciamoli andare, poi vediamo cosa succede e se muore più gente perché interveniamo o perché non interveniamo. Cecilia Strada, dal punto di vista, mettiamoci nell'ottica dei i talebani o quelli che hanno rivendicato questo attentato contro i nostri 4 militari italiani, secondo lei dal loro punto di vista hanno ragione a reagire così? Ma non sono nella testa dei talebani, però chi combatte contro gli stranieri in Afghanistan combatte perché rivendica la sovranità sul proprio territorio, rivendica la cacciata delle truppe straniere, come è stato fatto prima per i russi, come è stato fatto prima per gli inglesi e così. Dopodiché secondo me una riflessione chiara e onesta sul perché interveniamo con le nostre azioni militari dovremmo farla. Non ci raccontiamo che siamo andati in Afghanistan perché così Milano è più sicura e non ci raccontiamo come ci sia. Poi le giustificazioni della guerra a me sembra che cambino di settimana in settimana. Perché ogni guerra è diversa. Così Milano deve essere più sicura, prima era perché le donne andavano liberate e dovevano poter andare a scuola e stare senza burka, oppure è perché bisogna tenere le alleanze salde, l'alleanza della NATO. Ma io la giustificazione principe che ho visto è stata: ci hanno buttato giù le Torri Gemelle, è stato tutto pianificato dalle centrali del terrore al confine tra Pakistan e Afghanistan, andiamo a buttarle giù, insomma, andiamo a bombardare, a cercare, cioè questo ho visto come prima vera giustificazione, no, di questo. A meno di 24 ore dagli attacchi. Prima non avevano avuto alcun sentore che s'agitasse qualche cosa in zona, tant'è che a maggio i talebani, i rappresentanti del governo talebano, erano in Texas a trattare per la costruzione dell'oleodotto. Però questi cade un po' nel complottismo. Sì, però, no, però io le chiedo. Questo ci sono sì, sono fatti, ma questo è vero. Però poi in 24 ore hanno deciso che era stato l'Afghanistan, nessun dubbio, e si è andato a bombardare Bin Laden. Bin Laden che stava in Afghanistan. Però le chiedo, scusi Cecilia Strada, siamo in conclusione. Lei ha detto, per esempio, bisognava, non so, pensarci prima, non armare, non coccolare i talebani, e sappiamo la storia, quando i russi invadevano, Bin Laden era amico dell'America, poi è diventato nemico dell'America. Però, voglio dire, facendo questo discorso, andando a ritroso, cioè, io le chiedo, oggi cosa bisogna fare? Cioè, andare via tutti e il mondo sarebbe migliore senza uno che spara un'arma? Purtroppo, cioè, c'è quello che spara un'arma, ma perché ci gode a spararci contro, c'è anche questo. Sì, la situazione oggi è molto molto compromessa, anche più compromessa di come era nel 2001. Posso dire chi non andrà via dall'Afghanistan, noi non andremo via dall'Afghanistan e continueremo a lavorare lì senza armi e continueremo a riempire i nostri ospedali di feriti di guerra. Secondo me il primo inevitabile passo è fare un po' di chiarezza, che chi manda giù i soldati e li tiene giù a farsi ammazzare e ad ammazzare faccia chiarezza su quali sono le prospettive, cosa ci stiamo lì a fare e quanto vogliamo stare lì, perché 9 anni di guerra non sono serviti a niente. Ma perché dice ad ammazzare? Cioè i nostri soldati italiani ammazzano, dice sono lì per ammazzare. Io penso che quando si va a combattere qualcuno sia inevitabile correre il rischio, sì, certo, quantomeno di ammazzare i tuoi nemici. Beh, se ti sparano contro, ma non solo se ti sparano contro, pensiamo davvero che si possa andare a fare una guerra per sconfiggere i talebani, ma noi non tocchiamo il grilletto fino a che questi non sparano per primi? Allora le prospettive di guerra si allungano, magari non servono altri 9 anni, ne servono altri 90. Va bene, io mi fermo qui, ringrazio Cecilia Strada, presidente di Emergency, e Andrea Nativi, direttore della rivista italiana di Difesa, con Antonella Migliaccio in redazione e Peter Bescapè in regia. Diamo la linea come sempre a Oscar Giannino, 9 in punto, e noi ci troviamo domattina alle 7:20.